舌根音。 cu cu quadrato quadrado quadro quadro quaranta quaranta quartetto quartetto 练习 quota quota questo questo qui qui quale quale quaderno quaderno quasi quasi acqua acqua acquisto acquisto acquolina acquolina acquedotto acquedotto acqueo acqueo acquazzone acquazzone un aquilone di carte le ghiande della quercia i liquidi e i solidi un luogo quieto e tranquillo una lingua quotidiana l'acqua è un liquido. Acquisto un bel quadro. Leggo il quarto e il quinto capitolo. Questo è un quotidiano sportivo. Il quadrante del tuo orologio è quadrato. 谚语 Proverbi Quando il gatto è stato scottato, ha paura dell'acqua fredda. L'acqua passata non macina più.